Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. I figli di Enea. Storie di nuovi italiani. Di Valentina Furlanetto. Bentornati ai figli di Enea da Valentina Furlanetto, buon pomeriggio a tutti. Diamo in collegamento un regista, sceneggiatore, montatore italiano di origini cinesi, Sin Alessandro Zen. Benvenuto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie mille per l'invito. Lei è stato da poco a Venezia, dove il suo cortometraggio è stato presentato al Festival del Cinema. La sua famiglia non ha origini italiane e il racconto che lei fa attraverso le immagini è proprio centrato su questo, sul ritorno in un paese che è nostro ma non è nostro, l'incontro fra due culture. C'è questo giovane italo-cinese che viaggia fino alla contea di Wencheng per riportare a casa le ceneri del padre scomparso prematuramente, e qui incontra il nonno che diventerà un po' la guida in questi sentieri dimenticati della sua cultura d'origine. Ho detto bene, Alessandro? Sì, esattamente, proprio così. Ci provi a raccontare, poi faremo anche sentire un piccolo audio, un sonoro evocativo di questo cortometraggio. Come nasce questa storia, che il cui titolo è Where the Leaves Fall? È un viaggio controvento, no? Alla ricerca di queste radici. Esatto. Come hai raccontato tu, la corte è nato anche da un mio viaggio personale nella città di Wencheng, nella contea di Wencheng, dove c'è la città originale dei miei genitori e dove abitava mio nonno. Mio nonno fa una vita, diciamo, particolare, perché ogni anno sta un anno qui in Italia e poi un anno ritorna lì, perché gli manca un po' la sua città, ha un po' la nostalgia. E io mi ricordo che da piccolo un po' odiavo quella città, perché era la città dei nonni, dove passavo le mie estati. Ricordo che ricordavo più o meno ogni angolo della casa dei miei nonni, però dopo circa l'inizio delle medie ho fatto uno stacco, cioè nel senso mi sono scollegato da quel luogo. Infatti per quasi un decennio non ero più tornato nella città dei miei nonni, e l'estate dell'anno scorso mi è capitato, per puro caso, di dover di nuovo tornare lì a trovare i miei nonni. È nato tutto da una vacanza che avevo fatto io in Cina, e casualmente mi sono trovato lì vicino e ho voluto fare una visita ai miei nonni. E quando sono tornato in quel luogo è stato, non lo so, un'esperienza magnifica, perché la città era totalmente diversa, mentre il quartiere dei miei nonni è rimasto identica, come me lo ricordavo, quanto era identica alle memorie che avevo delle mie estati di quando ero piccolo. E in quel momento ho deciso di voler imprimere quell'immagine in un cortometraggio, in qualcosa che potesse durare nel tempo. Diciamo che è stato un po' un atto di nostalgia, che sembra un po' banale, però per un ragazzo di 23 anni la nostalgia è un'emozione molto forte e difficile provare in un'età così giovane. Nostalgia quindi per le estati da bambino passate in quella città, in quel quartiere. Esattamente. Oltre a quello, ho voluto anche raccontare un po' uno dei miei dubbi della mia vita, cioè quello di raccontare le vicende di un ragazzo con uno spaccato identitario, costretto a dover affrontare sia la sua cultura italiana sia la sua cultura originale, quella cinese. Allora, sentiamo proprio un brano, un passaggio di questo film che ci porta nell'atmosfera di questo cortometraggio. Non Insomma, questa idea del film è nata dall'esigenza di voler riscoprire le radici e la voglia di raccontare anche questa identità divisa in due, una cultura che è quella con cui lei, Alessandro, è cresciuto e un'altra cultura che appartiene ai suoi genitori, ai nonni, che sente, se capisco bene, sempre meno sua. Esattamente, io ormai chiunque mi conosce sa che sono molto più italiano che cinese. Lei dove è cresciuto? Io sono nato qui in Italia, sono cresciuto a Milano e vivo tuttora a Milano. E si sente milanese? Praticamente sì, ormai sì. Come se fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono accanto, con le mani nel vento, come fosse l'America con te, vorrei fosse domenica, tu coi piedi sul cruscotto, io il braccio che penso là, l'orologio sotto al sole che scotta e ripenso là. Vita senza te. Qui in Italia la cittadinanza, anche se nasce qui in Italia, dovrei richiederla a 18 anni. Dopo 18 anni permanendo sul suolo italiano, 18esimo anno, devi andare in ufficio, mandare i documenti e richiedere la cittadinanza. Ed è, diciamo che ho passato la maggior parte della mia vita come cittadino cinese. Come se fossimo bambini, come se fossimo destini che si corrono accanto, con le mani nel vento, come fosse l'America con te, vorrei fosse domenica, vorrei fosse domenica. Stringi la giornata fra le dita, che fra poco è già finita. Così è la vita, così è la vita. Venezia, com'è andata e com'è stato e com'è nato anche questa partecipazione al festival, che immagino sia una grande occasione per lei? Sì, sicuramente. Allora, il festival è stato veramente un'esperienza unica. È stato il mio primo festival in assoluto e per essere come prima esperienza è stato davvero unica. Tutto è nato grazie a uno dei miei professori, la mia relatrice, che ha proposto di mandare il mio cortometraggio, questo cortometraggio che è il mio cortometraggio di tesi, al Festival di Venezia. L'ha proposto a tutti gli altri docenti e hanno tutti accettato unanimamente, infatti devo ringraziarli veramente. E Venezia è stato incredibile, soprattutto in quest'anno, che è un anno particolare, un anno difficile per organizzare un evento così importante. Sicuramente devo fare i complimenti per anche tutti gli addetti al lavoro che sono riusciti a controllare l'evento in maniera impeccabile. Sì, abbiamo avuto i racconti da Venezia dalla nostra collega Marta Cagnola, che ringrazio tra l'altro perché mi ha segnalato lei questo cortometraggio, e anche lei ci testimoniava, insomma, di misure di sicurezza, di distanziamento imponenti, ma per fortuna sembra che sia filato tutto liscio. E ha deciso a un certo punto di studiare teatro e recitazione. Come mai? E che reazione hanno avuto i suoi genitori? Non so cosa facciano i suoi genitori in Italia, ma immagino, non, magari sbaglio, ma che non siano registi e attori. No, i miei genitori, come la gran parte della mia famiglia, sono ristoratori. Loro hanno aperto tutti i ristoranti. Il primo ad aprirlo è stato mio nonno, perché lui è stato il primo a venire qui in Italia. In che anni è venuto in Italia? Circa negli anni 80, è venuto prima nei Paesi Bassi su consiglio dei suoi amici, per trovare dei suoi amici che gli hanno consigliato di venire e andarli a lavorare come cuoco, e successivamente si è stabilito in Italia, dove piano piano ha fondato, diciamo, una base per poi portare tutta la sua famiglia qui, piano piano ogni zio, la nonna, e dopo lì si sono stabiliti e hanno, diciamo, iniziato le loro famiglie qui in Italia. Vorrei fosse domenica, andare in bici senza mani, una risata isterica e sconvolgere i tuoi piani, e volare senza elica, senza elica con te. Vorrei fosse domenica, niente stadio né partite, una coda patetica su questa statale, andare, volare senza elica, senza elica, io e te. bambini, come se fossimo destini che si corrono accanto, con le mani nel vento, come fosse l'America con te. Fino alle superiori ho studiato economia, un po' anche per volontà di miei genitori, e dopo aver studiato economia ho notato che il percorso non faceva per me. E all'università ho voluto totalmente cambiare, infatti c'è scritto la NADA, e un'Accademia di Belle Arti, che comunque è un percorso molto, molto diverso da quello che fanno magari altri ragazzi come me di seconda generazione, che seguono un po' i voleri dei loro genitori, fanno generalmente economia o ingegneria, diciamo quei indirizzi un po' più classici. Mentre io ho voluto un po' combattuto con i miei, e alla fine devo dire che ho vinto io. e sono felice che è andata bene, che sia andata così. Ci sono state molte resistenze da parte di loro, principalmente da parte di mio padre che di mia madre. Mia madre è stata sempre più aperta su queste questioni, però non è mai scattato un vero litigio, e infatti sono stato fortunato per questo, ed anche forse grazie a, diciamo, questa loro calma che sono riuscito ad iscrivermi a un corso del genere. Diciamo che per loro il loro piano B era il fatto che io comunque dopo l'università, se non avessi avuto successo, avrei potuto comunque continuare l'attività di famiglia. Diciamo che questo li ha tranquillizzati e mi hanno permesso di fare questa scelta. Beh, in questo momento, visto questo passaggio a Venezia, deve anche aver provato una sorta di riscatto nei confronti dei suoi genitori, visto che ha dovuto combattere. Come l'hanno preso questo onore anche di andare in un festival così importante? Devo dire che l'hanno preso molto bene, perché per la prima volta in assoluto hanno chiuso il ristorante per venire a un evento speciale mio. Sono riusciti a chiudere il ristorante un giorno e venire tutti a Venezia a guardare il cortometraggio e partecipare alla proiezione ufficiale di questo. Io sono felicissimo, perché è la prima volta in assoluto che è successa una cosa del genere. Quindi hanno addirittura chiuso il ristorante, che magari succede mai, o no? Esattamente, quasi mai, perché è un po' uno stereotipo questo, però è vero. I miei, come molti altri cinesi qui, sono molto legati al lavoro. Come se fossimo destini che si corrono a casa, con le mani nel vento, come fosse l'America con te, come fosse l'America con te, come fosse l'America con te, come fosse l'America con te, come fosse. Ci fermiamo brevemente perché c'è una piccola pausa e torniamo con lei tra pochissimo. Con te. I figli di Enea. Io non ho catene, filo liscio come l'olio, mi colpisce tutto st'odio, giuro non mi fa bene. Siamo questo pomeriggio con Xin Alessandro Zeng, classe 97, regista, sceneggiatore, montatore. Ha studiato presso la sede di Milano della Nuova Accademia di Belle Arti e ha collaborato a diverse produzioni di cortometraggi e documentari, sia in Italia che in Cina. Adesso è stato proprio a Venezia, come dicevamo, con un suo cortometraggio, La tesi del triennio, che ha fatto sì, come ci stava raccontando, che anche i suoi genitori abbiano lasciato per un giorno il lavoro nella ristorazione per andarlo a vedere. Che reazioni hanno avuto, visto che la storia che viene raccontata in questo cortometraggio un po' appartiene anche a loro? Esatto, durante la proiezione sono stati comunque felici, perché hanno visto che è stato molto apprezzato ed è venuto molto bene il cortometraggio. Però ricordo che durante la preproduzione del corto ho avuto un po' di resistenze, principalmente da mia madre, stranamente, perché diciamo che nella cultura cinese una storia del genere è molto negativa, perché loro sono molto più superstiziosi di come lo sono gli italiani. Infatti una delle difficoltà che ho avuto anche durante questo cortometraggio è stata la difficoltà di trovare l'attore del nonno. Noi, mi ricordo che il nostro primo attore che aveva accettato l'incarico ci aveva chiamati una mattina, era la mattina della partenza in Cina, quando noi eravamo a Malpensa, dicendo che non voleva più fare il ruolo. Come mai? È proprio per questi motivi, perché nel corto parla un po' della morte, anche se in verità la morte è quasi un evento secondario che accade sullo sfondo, però solo il fatto che nel cortometraggio muore questo figlio, il figlio del nonno, che è il padre del ragazzo, per molti è stato quasi, diciamo, è stato un fatto per evitare il ruolo, perché avevano paura che accadesse sul serio. E poi ha superato questo ostacolo trovando un attore che fa appunto il nonno. È un italiano di origini straniere, è un cinese? Un cinese, però che ha lavorato anche in Italia. E infatti sapevo anche un pochino l'italiano, è stato veramente un colpo di fortuna, perché l'abbiamo trovato facendo set casting. Era un abitante, lui non ha mai avuto esperienze recitative, e ha avuto l'occasione, diciamo, ha avuto la nostra proposta di poter recitare in questo cortometraggio e l'ha accettato, pur questa, diciamo, grossa difficoltà culturale sulla scaramanzia. È riuscito ad accettarlo, superarlo, ed è riuscito anche a recitare in maniera magnifica. Io non ho catene, non credo al matrimonio in generale basta che mi vuoi bene. Ho alzato un gran casino, fare molto più casino se tu non stessi bene. Tutta quella nostalgia forse se n'è andata via, ma mi rimane un bicchiere. Mi serve un elastico sì per tenermi insieme. Ci serve un elastico sì per tenerci insieme. Non basta un elastico per tenerci insieme. Io non so che bere, a volte non lo vedo mezzo vuoto, a volte io non vedo. Molti italiani di origini cinesi, italiani di seconda generazione, mi raccontano che durante gli studi al liceo, invece che all'università, il tempo libero lo trascorrevano lavorando nell'attività di famiglia. È successo anche a lei? Sì, io sì, principalmente nei weekend, cioè nei momenti più affollati. Ho iniziato a 12 anni a lavorare. All'inizio era iniziato un po' così come richiesto di me, e poi è diventato quasi un lavoro part time durante il weekend. Secondo lei questa attività che le veniva richiesta l'ha svantaggiata oppure l'ha avvantaggiata, facendole capire i meccanismi del lavoro e anche la fatica, e imprimendole, diciamo, un'idea di caparbietà, di voglia di raggiungere i propri obiettivi? Allora, un po' difficile, perché ovviamente quando io ho iniziato a circa 12 anni, perché comunque ero un ragazzo più alto della media e sembravo già un po' più adulto, forse mi pensavo anche era già allora, però per un qualsiasi ragazzo di 12 anni, soprattutto sono nato, cresciuto qui in Italia, diciamo è un po' strano, soprattutto quando vedi tutti i tuoi amici che in verità escono fuori alla sera, il sabato sera, ma questo tuttora, mentre tu sei costretto a lavorare al ristorante, a rifiutare tutti gli inviti. Questo ovviamente non fa mai piacere, però allo stesso tempo devo dire che questa esperienza lavorativa sì, ti matura, sicuramente ti aiuta a maturare, ti aiuta a fare nuove esperienze. Senta, lei ci racconta in pratica l'esperienza in Italia di tre generazioni: il nonno che è arrivato per iniziare un lavoro e quindi immagino non conoscesse la lingua, non avesse contatti o ne avesse pochi, suo padre che ha continuato questo lavoro di ristoratore, avrà avuto altri problemi, un'altra esperienza, e lei che invece si è distaccato dall'esperienza dei genitori ed è italiano. Secondo lei che tipo, come con una parola soltanto, come definirebbe le difficoltà, le tre tipi di difficoltà che avete dovuto affrontare? Allora, usare il plurale per me è difficile perché in verità non so perfettamente che difficoltà hanno dovuto sopportare loro. I miei genitori, i miei nonni, comunque venendo qui in Italia, sì, i miei nonni hanno avuto sicuramente più difficoltà perché loro di italiano, anche di inglese, non sanno quasi nulla. Loro in verità, i miei nonni parlano solo semplicemente il dialetto della loro zona, non sanno neanche il cinese mandarino. Mentre i miei genitori con gli anni hanno imparato molto di più l'italiano e come diciamo qualsiasi diciamo cioè hanno imparato anche l'italiano e mi hanno tentato di crescere un po' diciamo un po' più come posso dire integrato nella cultura, anche se da piccolo sapevo prettamente il cinese. Le mie difficoltà, posso parlare principalmente delle mie difficoltà personali perché sono quelle che conosco meglio, sono state più legate all'infanzia che perché per un bambino è difficile capire il perché gli altri hanno un aspetto diverso dal tuo, parlano una lingua diciamo prettamente diversa dalla tua e hanno soprattutto cognomi facili da scrivere, mentre il tuo lo sbagliano sempre quando lo devono scrivere alla maestra, a scuola, dappertutto. E questa cosa un bambino non riesce a capirlo e questa, diciamo che queste difficoltà da piccolo mi turbavano molto e sono riuscito a superarle semplicemente col tempo, con la maturità. E niente, tutt'oggi, cioè ora in età adulta, in questa società sempre più globalizzata dove ormai è quasi la norma che gli studenti vadano a studiare all'estero, che facciano i viaggi all'estero andando in posti dall'altra parte del mondo, ormai diciamo questa mia divisione, spaccatura culturale non mi pesa più di tanto, anzi mi sento una persona molto ordinaria, se devo essere sincero. Ci serve un elastico sì, per tenerci insieme, non basta un elastico per tenerci insieme. Io non ho catene, non credo al matrimonio in generale basta che mi vuoi bene. Ho alzato un gran casino, fare molto più casino se tu non stessi bene. Tutta quella nostalgia, forse se n'è andata via, ma mi rimane un bicchiere. Mi serve un elastico, sì, per tenermi insieme. Ci serve un elastico, sì, per tenerci insieme. Non basta un elastico per tenerci insieme. Com'è questo quartiere dove lei è andato spesso da bambino, dove suo nonno adesso torna, se ho capito bene, un anno sì, un anno no, per la nostalgia che ha nei confronti della sua patria d'origine? A proposito di Wonsan, io da piccolo in verità quel posto un po' lo odiavo perché andavo sempre in estate, faceva molto caldo. Non c'era internet, le TV erano a tubo catodico con 8 canali di cui solo uno programmavano cartoni animati e perciò questo un luogo così per un bambino che è cresciuto in Italia era quasi un inferno. È una zona però ricca o una zona povera della Cina? Non posso chiamarla ricca, non posso neanche chiamarla, è un piccolo, diciamo un piccolo paese di, è un piccolo fra virgolette perché alla fine in verità non è, per ai livelli cinesi è una piccola città sperduta tra le montagne, mentre in Italia potrebbe essere definita tranquillamente una città medio di medie dimensioni e perciò no, la definirei più come semplicemente una città di campagna, quasi. Ho capito. Una vita molto semplice e diciamo che la mia scelta di voler ritornare lì, registrare un cortometraggio lì è stato puramente per la nostalgia. Io in quel luogo ovviamente non sono affezionato perché rappresenta le mie origini, io ci sono affezionato perché ho passato lì buona parte della mia infanzia. Io non ho catene, non credo al matrimonio in generale basta che mi vuoi bene. Ho alzato un gran casino, fare molto più casino se tu non stessi bene. Tutta quella nostalgia, forse se n'è andata via, ma mi rimane un bicchiere. Mi serve un elastico, sì, per tenermi insieme. Ci serve un elastico. Grazie per essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie a voi per l'invito. E grazie anche a tutti voi che siete stati in ascolto di questa puntata. Vi do appuntamento a domenica prossima alle 14 sulle frequenze di Radio 24. Buona domenica a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.